bastardo dittatore che conquistò il consenso con la violenza e lo mantenne censurando le parole. Non essere mai così prepotente da mettere la testa in un cassetto e non sentire niente, reprimere il diverso, pensare che il resto del mondo sia sommerso. Non essere mai così prepotente che con la prepotenza non si ottiene niente, né rispetto, né amicizia e nemmeno comprensione. Devi soltanto capire che le idee sono le persone.